Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Giulia Crivelli, eccoci con la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei, ai giornali europei o ai giornali che parlano di Europa. Inizierei da un articolo apparso su Liberation che trovate su Internazionale di questa settimana, quello che è uscito ieri, di Bernard Guetta e si intitola Le tentazioni di Putin. Naturalmente è una specie di riflessione, una lunga riflessione sulla questione della Crimea, dell'Ucraina. So che la cronaca ci supera sempre. Ne sentirete sicuramente anche nel corso dei GR di oggi, proprio per questo da qualche settimana cerco di leggere e tenere da parte invece gli articoli che magari ci danno un po' il senso della questione, se è possibile trovarlo. Scrive Guetta: a questo punto, se le cose volgeranno al meglio o piuttosto almeno peggio, Putin potrebbe accontentarsi del picco di popolarità raggiunto con l'annessione della Crimea, che agli occhi della maggioranza dei russi è semplicemente una restituzione, senza cedere alla tentazione di impadronirsi interamente solo in parte dell'Ucraina orientale. Se così fosse, la situazione resterebbe in qualche modo gestibile sia per la Russia sia per gli Stati Uniti e veniamo a noi, l'Unione Europea. E poi però Guetta spiega anche quali sono i problemi che comunque Putin avrà, non è che andrà tutto così liscio, e scrive: per il momento gli occidentali hanno imposto alla Russia sanzioni largamente simboliche perché non vogliono sfidare militarmente Mosca, perché gli investimenti in Russia sono troppo importanti per essere sacrificati senza ripercussioni per le loro economie e perché l'approvvigionamento energetico di gran parte dell'Unione Europea, ed rieccoci a noi, dipende soprattutto dalle risorse e dai gasdotti russi. E vi leggo l'ultima parte, che è la riflessione in finale, appunto perché Guetta spiega che la questione dovrà far riflettere anche gli Stati Uniti su che tipo di politica estera, quando ci sono queste crisi, vogliono avere, anche perché Putin non è tipo da fare così non è tipo da un exploit e basta. Putin ha altri stati cuscinetti che gli interessano, sottolineano molti osservatori. E conclude quindi Guetta: l'ultimo interrogativo riguarda l'Europa, che a questo punto si trova davanti a una scelta fondamentale. Dopo essersi accorta con colpevole ritardo di non poter andare avanti senza una difesa e una politica estera comuni, l'Unione Europea deve rimediare a questa mancanza, coinvolgendo tutti i suoi 28 paesi o lasciandosi guidare dalla Francia o dalla Germania. In caso contrario è condannata a restare un'opera incompiuta e ad accelerare il suo declino. E di questo tema, quello della politica estera comune e della politica di difesa comune, abbiamo parlato tante volte. Noi come Unione Europea non abbiamo di fatto un esercito, per esempio, ed è forse una questione che sarà sul tavolo, magari non del semestre di presidenza europeo, però dopo le elezioni, probabilmente in maggio. Visto che abbiamo detto la cronaca la lasciamo un po' da parte, però per quanto riguarda la questione ucraina, oggi però sulla Süddeutsche Zeitung c'è un articolo che è stato tra l'altro largamente anticipato ieri, è un'intervista ad Arseni Yatsenyuk, che è il premier ad interim dell'Ucraina, dopo che sapete è stato cacciato Yanukovych, e ha rilasciato questa intervista alla Süddeutsche Zeitung, che è un po' una richiesta d'aiuto all'Unione Europea. Kiev chiede al mondo una exit strategy, dice titola la Süddeutsche Zeitung. In questa intervista il Yatsenyuk si dice preoccupato per l'allargamento della presenza russa, che si potrebbe concentrare solo in Crimea, ma la Crimea è lì alle porte dell'Ucraina, e sottolinea come sia evidente che Mosca vuole appunto anche l'Ucraina orientale. Non ho dubbi, dice l'uomo politico, che manderanno nell'area di confine manifestanti e provocatori pagati. Per questo, aggiunge, è necessaria l'istituzione di una commissione internazionale di monitoraggio e, secondo lui, idealmente dovrebbe essere composta dai ministri della difesa degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, Russia e Ucraina. E vediamo un po' quali saranno appunto le mosse nei prossimi giorni dell'Unione Europea. Avete visto che si sono aggiunti anche ieri nuovi proscritti in questa lista appunto di queste sanzioni che Liberation definiva molto blande contro la Russia. E parliamo un pochino di noi, anche se ne è parlato tanto sui giornali, ma ve lo riassumo un po'. Insomma, Renzi ha fatto, sapete, tappa in Francia e in Germania. Alcuni giornali italiani hanno un po' maliziosamente detto che la sua visita era stata ignorata in Germania dai media tedeschi. Non è stato proprio così, certo, non aveva i titoli che gli abbiamo dato noi, ma mi sembra anche naturale. E comunque invece direi che, scorrendo un po' i giornali tedeschi, partendo proprio dalla Süddeutsche Zeitung, qualche titolo Renzi l'ha avuto. Per esempio Appunto, il giornale della, questo giornale importante di Monaco di Baviera, del sud della Germania, ha titolato Il riformista e i suoi desideri, con la spiegazione che Matteo Renzi sostanzialmente ha ottenuto un sostegno da Berlino per i suoi piani per l'Italia, anche perché sono sicuramente piani che sulla carta come non potrebbero avere il sostegno, visto che parlano di quelle riforme che tutti auspichiamo, almeno molti in Italia auspicano e tanti anche all'estero da anni, e quindi insomma è stato un articolo positivo, anche perché la cancelliera è apparsa insolitamente gioviale, anzi dice la Süddeutsche Zeitung, Merkel ha viziato l'ospite del sud, lo ha coperto di lodi, ha sottolineato 3 volte di essere molto impressionata dal cambiamento strutturale in programma in Italia. Poi c'è il Tagesspiegel, che è un altro quotidiano tedesco, che invece ha pubblicato una foto in cui Angela e Matteo camminano perfettamente allineati e ha titolato lo stesso passo. In un primo momento non si credeva a una buona chimica tra i due, il nuovo premier socialdemocratico, così lo definisce la Tagesspiegel, ha spiegato come il suo paese, già fortemente indebitato, voglia alzare il deficit con un grande pacchetto di riforme. Eppure Angela Merkel ha tributato in cancelleria un certo rispetto a questo collega che, sottolinea la Tagesspiegel, ha circa 20 anni meno di lei. E sempre a proposito di Matteo Renzi, anche questo articolo è stato citato, però insomma mi piace sottolinearlo, perché appunto non è vero, come maliziosamente hanno scritto alcuni giornali, che quello che fa Renzi è eccessivamente enfatizzato da noi e ignorato all'estero. È sicuramente un fatto eccezionale anche fuori dall'Italia. Questi 39 anni, ha presentato un piano effetto per rilanciare la stagnante economia del paese. I critici sostengono che i suoi numeri non tornano, scrive Financial Times. Adesso ne abbiamo sentito parlare talmente tanto in questi giorni di questi numeri, che tornano sì, tornano no, lo sappiamo quali potrebbero essere i problemi. Però insomma l'impegno, la novità che costituisce Renzi sicuramente non passa inosservata neanche all'estero. E vi segnalo invece dalle Figaro un'altra questione. Qui siamo tirati in ballo per un premier del passato, naturalmente Silvio Berlusconi, e perché giovedì Nicolas Sarkozy ha scritto una lettera aperta al quotidiano Le Figaro, che è il quotidiano conservatore più importante di Francia. Addirittura l'ha intitolata un po' ambiziosamente, pomposamente, lettera ai francesi. È una lettera che ha fatto seguito alla pubblicazione di alcune sue intercettazioni di conversazioni fatte da Sarkozy al cellulare, dove però lui dice delle cose molto spiacevoli sui giudici, e a questa lettera subito reagito il ministro del lavoro francese Michel Sapin, che sapete è di parte avversa rispetto a Sarkozy, perché l'attuale governo francese è socialdemocratico e non conservatore come era quello di Sarkozy. In ogni caso, il ministro del lavoro ha bollato questa lettera come un colpo di stato verbale contro le istituzioni, e tanto per farsi capire, per far capire che cosa intendeva, alla Berlusconi. Quindi diciamo che anche quando, anche qui, i giornali maliziosamente scrivono che le vicende di Berlusconi interessano solo gli italiani, che all'estero viene visto soltanto come un uomo di Stato che ha segnato la vita politica di 20 anni di questo paese, in realtà è molto chiaro anche all'estero quali sono i problemi, le polemiche, le questioni aperte che Berlusconi ha con la giustizia, e soprattutto il suo atteggiamento verso i giudici e alcune sue passate dichiarazioni verso i giudici. Il New York Times invece si occupa di un'altra questione che anche da noi continua a essere aperta, ogni tanto se ne parla quando magari c'è una sentenza o rispunta fuori in qualche tavola rotonda, che è quella della TAV, naturalmente. Il New York Times infatti ne parla, l'ha addirittura messa in prima pagina con un reportage da Chiomonte. Una linea ferroviaria ad alta velocità che doveva unire l'Italia è invece finito per dividerla. Ci si cerca di riassumere questa complicata vicenda della TAV in Val di Susa, e il New York Times spiega che la costruzione della linea, di questa linea che in realtà parte dall'Italia e finisce in Francia, o se la si guarda dalla Francia, parte dalla Francia, arriva in Italia, insomma avrebbe potuto unire e forse comunque unirà i nostri due paesi, abbia provocato manifestazioni e proteste pacifiche, ma anche scontri violenti, atti di sabotaggio e perfino accuse di terrorismo. Sempre cercando di Dare un quadro, ed è difficile all'estero, di questa vicenda, scrive il quotidiano americano, per alcuni residenti le barricate, sia fisicamente che metaforicamente, riflettono una concezione diversa dello sviluppo, perfino della democrazia, e la distanza dai centri di potere di Bruxelles e di Roma. Era purtroppo l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, ma sicuramente trovate o su Internazionale o su tanti altri siti. Press Europa purtroppo ha chiuso. Tante notizie sull'Europa, teniamola d'occhio questa nostra Europa in vista delle elezioni di maggio. Un buon sabato a tutti. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.